gli elfi e il calzolaio. C'era una volta un calzolaio che viveva con sua moglie. Il calzolaio guadagnava il suo pane quotidiano realizzando nuove scarpe e vendendole al mercato. Nonostante tutto il suo duro lavoro, non riusciva a guadagnare denaro sufficiente per la sua attività. Lavorava per mantenere una vita quasi dignitosa. Sfortunatamente, arrivò il giorno che il calzolaio non ebbe più soldi per comprare la pelle per realizzare nuove scarpe. Tutto quello che era rimasto era un pezzo di pelle in tutto il suo negozio. Questa potrebbe essere l'ultima volta che realizzo una scarpa. Con questa pelle realizzerò la scarpa più bella. Si sedette come aveva fatto ogni giorno per molti anni e intagliò con cura la pelle. Quando giunse il tramonto, aveva terminato il taglio e cominciò a cucire le scarpe. Si fece notte. Pose il lavoro sul tavolo. Per oggi mi fermo qui. Domani completerò la coppia di scarpe. Chiuse la porta del laboratorio e se ne andò a casa. Il giorno dopo si alzò presto di buon mattino. Buongiorno, cara. Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Presto tutto finirà. Non ti preoccupare, tesoro. Si risolverà tutto. Non perdere la speranza. Il calzolaio sapeva che il suo incoraggiamento non era di alcun aiuto. Le sorrise e si diresse al lavoro. Quando aprì la porta del laboratorio, vide qualcosa di incredibile. Dove aveva lasciato il suo lavoro incompleto, c'era una coppia di scarpe ben colorate, con ricami delicati e curati. Oh! Ma com'è possibile? Comunque, non devo perdere altro tempo. Devo vendere questo capolavoro al mercato. Si precipitò al mercato e vendette le scarpe. Con i soldi guadagnati acquistò del cuoio. Finita la giornata, si sedette nella sua officina, intagliando la nuova pelle per creare altre scarpe. Giunse la sera e ritornò a casa, lasciando le scarpe incompiute. Durante la cena, raccontò a sua moglie dell'accaduto. Tesoro, ti ho detto, non perdere la speranza. Tu sei un uomo davvero testardo. E prima o poi la fortuna che meriti arriverà. La mattina seguente, quando tornò nel laboratorio, con grande stupore vide un paio di bellissime scarpe poste sul tavolo dove aveva lasciato i pezzi incompiuti. Questo è un miracolo! Durante questi anni ho lottato per guadagnare grazie al mio duro lavoro, ma io non ci sono mai riuscito. Penso che qualcuno stia cercando di aiutarmi. Ancora una volta si precipitò al mercato e comprò dell'altro cuoio. Tagliò con cura il cuoio per realizzare parecchie paia di scarpe e le lasciò sul suo tavolo da lavoro. Al mattino, anche questa volta trovò tante scarpe che lo attendevano. C'erano sandali, stivali, scarpe da balletto, zoccoli, francesine e mocassini con colori diversi. Oh, che scarpe stupende! Sono certo che qualcuno mi sta aiutando sinceramente. Se questa persona continuerà ad aiutarmi, ricaverò tanti soldi. Il calzolaio iniziò a lasciare sul tavolo i pezzi pronti per lo sconosciuto che lo stava aiutando. Andò avanti così per settimane. Ogni mattina il calzolaio trovava bellissime scarpe che lo attendevano. Ben presto diventò famoso per aver creato le scarpe più belle nel suo villaggio. Si costruì una splendida casa per viverci. Visto come la tua vita è cambiata, era solo questione di tempo. Sì, mia cara, tu mi hai sempre incoraggiato e ci siamo riusciti. Sì, non dobbiamo dimenticare il misterioso aiutante. Dobbiamo scoprire chi è, così possiamo fare qualcosa per ringraziarlo. Ma se ne va via al mattino presto, come possiamo incontrarlo? Domani noi ci nasconderemo nel laboratorio. Sì, hai ragione, funzionerà! Voglio ringraziarlo per il suo aiuto. Il giorno dopo, come al solito, il calzolaio tagliò la pelle durante il giorno. La sera, sua moglie entrò nel laboratorio come previsto. Dai, nascondiamoci! Sì, possiamo nasconderci dietro l'armadio! Quindi si nascosero dietro l'armadio vicino al banco di lavoro e aspettarono. A mezzanotte, il calzolaio e la moglie udirono delle voci che intonavano una bella melodia. Si affacciarono e rimasero stupiti di vedere due piccoli elfi carini che indossavano abiti strappati e vecchi e stavano salendo dalla finestra. Saltarono dentro. Gli elfi cantavano e danzavano saltellando. Erano gli elfi più felici che il calzolaio avesse mai visto. Dopo aver ballato allegramente, gli elfi si sedettero al tavolo e cominciarono a realizzare le scarpe. Tagliavano, cucivano, coloravano e decoravano le scarpe una per una. Il calzolaio e sua moglie li guardavano stupiti. Il calzolaio era basito per la loro abilità nel produrre le scarpe. Terminato l'ultimo paio di scarpe pronte da indossare, gli elfi saltarono fuori dalla finestra e scomparvero. Erano degli elfi? E ogni giorno loro vengono ad aiutarci. Dobbiamo trovare il modo per ringraziarli. Sì, certo. Ma cosa possiamo fare per loro? Caro, indossavano abiti molto vecchi e strappati. Possiamo dare loro alcuni vestiti. Questa è un'idea brillante. Creerò per loro delle nuove scarpe. E io cucirò degli abiti belli e comodi. La coppia lavorò moltissimo per dare i doni agli elfi. Dopo una settimana, il calzolaio aveva cucito due piccole paia di stivali rivestiti di pelliccia. La moglie del calzolaio aveva cucito due piccole giacche di pile con camicie e pantaloni di lana calda. Queste scarpe e questi abiti staranno benissimo sugli elfi. Sono davvero entusiasta di vederli indossati da loro. Domani è la vigilia di Natale! Decoreremo il nostro negozio per Natale e metteremo questi regali sul mio tavolo da lavoro. La coppia decorò il negozio per Natale e mise i regali vicino al banco da lavoro. A mezzanotte, indubbiamente, gli elfi cantando sarebbero tornati. Gli elfi entrarono in casa, erano felici e ballavano. Ma una volta terminato il ballo, quando videro la tavola rimasero sorpresi. Che fine ha fatto il lavoro di oggi? Guarda, fratello, come sono belli questi vestiti e gli stivali! E sono anche molto colorati! Il calzolaio deve averli fatti per noi, per ringraziarci! Deve essere molto contento del lavoro fatto! Yeah! Indossiamoli! Gli elfi indossarono i vestiti e gli stivali. Calzavano alla perfezione. Fratello, sei davvero molto bello! E tu sembri strepitoso! Questi abiti sono bellissimi! E queste scarpe sono fantastiche! Sai, fratello, ho tanta voglia di ballare! E allora balliamo, fratello! Ancora una volta ballarono, felicemente come sempre. Il calzolaio e sua moglie erano molto felici di sapere che gli elfi apprezzavano i loro nuovi abiti. Dopo un po', gli elfi saltarono fuori dalla finestra e svanirono alla luce della luna. Il calzolaio e sua moglie uscirono dal nascondiglio. Oh, caro! Sono davvero contenta che i regali gli siano piaciuti! Oh, sì! Cara, è tempo di festeggiare! Andiamo a casa! Era la mattina di Natale. Il calzolaio tagliò la pelle e la lasciò sul tavolo per gli elfi. Ma quando tornò nel laboratorio il giorno dopo, non trovò le scarpe. Andò a casa per dirlo a sua moglie. I nostri elfi non sono tornati! Non c'era nessuna scarpa! Va bene, caro. Ci hanno aiutato abbastanza. Rimettiti a lavorare, come hai sempre fatto. Sì, lavorerò da solo. Durante questi giorni ho imparato ciò che la gente vuole e che cosa le piace. Creerò le scarpe più belle del mondo! Ancora una volta si mise al lavoro con tanta passione e volontà, come anni fa, prima che arrivassero gli elfi. E proprio come quelle che riuscivano a realizzare gli elfi, le sue scarpe erano le migliori al mondo.